la notte giusta. E ne verranno altre. E altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Legendary. Con Hey Beautiful. È divertente che mi ha detto Piero, lo disannunci tu. E poi l'ha detto lui. Non ti piace, scusa. L'altro, detto, io lo disannuncio. Chi è che conduce il programma? Tu o lui? Ma io ho chiesto, chi lo disannuncia di voi due? È lui. Tu. E poi l'ho disannunciato io, mi pare logico. Basta, è inutile stare qui a parlarne. Insomma, di che parliamo oggi? How I met your mother. How I met due volte o una sola volta? No, volevamo fare la cosa figa, però non è uscita. Allora, riproviamo. Vai, rifalla. Di che cosa parliamo stasera? How I met your mother. Oppure, e alla fine arriva mamma. Torna tutto. Come, cioè, che schifo? Che schifo è il titolo italiano. Perdonate. Infatti ho pensato bene poi di ricambiarlo. Di mettere How I met your mother e alla fine arriva mamma. Tutto insieme. Questo non la sapevo. Partiamo con le curiosità. Vai, su, così. Te la sbutto una lì. Sai chi ha scritto la canzone che abbiamo appena sentito? I The Solids. Ok. E questa Your Mother. No, non è io. Perché dovete sapere che stasera c'è anche il muratore slavo che ci fa il bagno alla bicicletta. No, allora. Dai, su, su. Curiosità. Perfetto. La canzone che abbiamo sentito era la sigla di How I Met Your Mother. Sì, o meglio, la parte finale. Gli ultimi 20 secondi. Di quello si parla dopo. Volevo arrivarci con calma. E è stata scritta dagli autori stessi di The Solids, né The Solids, che è il gruppo che ha scritto questa canzone, fanno parte gli autori della serie TV. Hai capito? E chi sono? Sono Carter Bays e Craig Thomas. Wow. Sì, sono che loro. Che fighi loro. Cioè, si vede quanto siete preparati, però. Hai visto? Fantastico. Guarda, comunque ogni volta che mi chiamate a fare l'ospite, io porto cose. Cioè, sì, oggetti. Una volta portavo fogli, oggi ho portato computer e gente. Sì, dimenticando che la radio è uno spazio angusto e quindi stiamo tutti qui ammassati sopra i microfoni. Abbiamo dovuto montare anche il secondo microfono, perché altrimenti parlare in quattro da un microfono soltanto era da matti. Ah, vabbè. Comunque. Si fa. Invece la parte musicale diceva Franco, giustamente, no? Cosa diceva? Che la sigla è un pezzo di questa canzone, ma soltanto gli ultimi secondi, che non c'entrano niente con la canzone. Cioè, sì, potevano fare una canzone per la sigla invece che fare la sigla. Gli autori sono gente strana. Hanno costruito una canzone su 20 secondi, secondo me. Cioè, loro ci avevano in testa il papapapa. E poi da lì a ritroso. Come scrive una canzone a ritroso? Contattate gli autori. Magari ascoltandola al contrario dice qualcosa di importante, però. Ci proveremo e poi ve lo faremo sapere. Beh, ora di cosa vogliamo parlare? Ma io voglio sapere, io ascoltatore medio, cioè io che faccio finta di non aver mai visto How I Met Your Mother. Potevi farla pure tu sta puntata, perché mi hai chiamato? Cioè? Sei tu che mi hai iniziato a tutto ciò. Ah, bravo, dillo, perché io sono spacciatore, quindi... È giusto. E quindi spaccio serie TV, How I Met Your Mother meritava di essere spacciato. In una notte, non mi ricordo se era... di autunno, di inizio autunno. Sì, forse è autunno, è vero. Una notte di inizio autunno, aneddoto divertente. True story. Poi, true story. Poi capiremo perché. In una notte di inizio autunno, io e Piero eravamo sotto casa di Piero. Di Piero. Che poi è vicino a casa mia alla fine. Cioè, eravamo anche sotto a casa, casa mia, se essere. Sì. Ma tu non però c'eri. Non c'era. Però anche a casa mia, era lì vicino. Lontani da casa mia, però. Sì, molto lontani. Molto lontani. Attaccati, Tommaso. True away. No, non c'entra niente. Io stavo glissando su questo tuo errore di citazione, ma andiamo avanti. Piero, detto Piero, consigliami qualche serie TV. E io te ne ho dette 3 o 4. No, me ne ha dette una ventina, ma in giro di 20 minuti ho detto no Piero, non guarderò mai tutte queste. Anche perché io non sono metodico come te. E quindi ne guardo una e basta. Ecco, e quindi hai scelto. Ho scelto Dexter. Poi, finita Dexter. No, poi è venuto e ha fatto, però Dexter non fa ridere. Te l'avevo detto che non faceva ridere. Finito Dexter, no, Dexter lo conoscevo da prima. Ho detto, no, finisco la sesta serie, finita la quinta serie di Dexter, ho detto, ma posso cominciare a vedere a Met Your Minchia, come diciamo colloquialmente. E mi sono trovato bene, no? Divertente. Anche quindi, quelle 6 stagioni. 6 stagioni mangiate in 2 settimane, tipo. E poi ho detto a lui, a Frankie, guarda How I Met Your Mother. Vedi come lo spaccio diventa seriale, anche quello. È un virus che dilaga. Sì, ora la guardi anche tu. Certo. Quindi l'ascolto meno. La gente in chat a un certo punto comincia a guardare How I Met Your Mother. Sì, guardate, perché è divertente, no? Cioè, ecco, però ancora non potete non farne detto... a meno. Ora abbiamo detto l'aneddoto. True story. Ma true story. Di che cioè, allora, How I Met Your Mother, cos'è? Allora, è la storia... di un architetto che narra i propri figlioli che si chiama Ted Mosby. Bravo, è preparatissimo. Che nel 2030 prende i figlioli, li mette sul sofà e dice: ora vi racconto come ho conosciuto vostra mamma. Ma ovviamente non va subito al sodo e parla dell'incontro importante. Cioè, inizia a parlare, sarebbe molto banale. Inizia a parlare della sua vita a New York a partire dal 2005. La cosa va avanti da 6 anni e non sappiamo ancora chi sia sua mamma. Si è vista una caviglia della mamma. Si è vista una caviglia della mamma e anche un autobus, uno scuolabus in miniatura. Potrebbe essere spoiler. No, dai, no. Sulla caviglia non è spoiler. Io l'ho letto su Wikipedia prima di vederla questa puntata, quindi questo non vuol se dire è stata spoiler per me, lo sarà anche per voi. Va bene, ok. E quindi adesso siamo tutti in trepida attesa di dire chi è questa mamma di questi poveri figlioli che sono lì e da 6 anni sentono loro padre parlare delle sue esperienze in gioventù. Ho capito. Giusto? True story. Mario, tu dimmi. Quindi di cosa vuoi, hai preso degli spezzoni dal web? Serie, bravo. Essere sincero, li ho presi io. Giusto, è vero. Ah, bravo. Lui ha trovati e li ho scaricati, mettiamola così. E ora metterei uno spezzone che non c'entra niente con quello che abbiamo detto fino ad ora. Mi sembra giusto, cioè... Perché parlare di una cosa e far perché vedere una puntata lineare? No, mai! Però è divertente. E poi su questo possiamo parlare del doppiaggio, che questione è fondamentale in tutto ciò. Cioè, in questa serie il doppiaggio è un dilemma molto molto alto. Ah, okay. Perché mi fai gesti su... No, facevo gesti a lui, non facevo gesti a te. Senti, okay. Senti, sì, la mandiamo. No. Vai. Ecco. State fumando? Siete come tutti noi. Wow. Io non sono un fumatore. Io fumo solo in particolari circostanze. Post coito, quando sono con le tedesche, spesso le due cose coincidono. Coito, compleanno, per dispetto a mia madre. Precoito, in barca a vela, tutti gli anni quando i Mets vengono eliminati e soprattutto, udite, e lui mi è testimone, tensione da gravidanza. E perché fumi adesso? Io sono sempre in precoito. Allora, chi parlava? Lui era Barney Stinson. Eroe della serie, possiamo dirlo che è l'eroe. Nonostante non sia il protagonista, è l'eroe. Cioè, siamo 4 che la guardiamo, diciamolo. Cioè, sì, dai. È il trascinatore. È il trascinatore. Cioè, sì, è l'elemento comico per eccellenza della serie TV. Sì, è qui, diciamo, un esempio di quanto lui sia figo con le donne, di quanto lui riesca... Cosa fai, gesti? Non capisco, perché mi mandi il culo. Piero si comporta come se avesse la tastiera è quella di... Di Navigator. Così. Sì, come davanti, no? Faccio gesti, la gente non mi comprende. Spoiler di Cinemando. Allora, te lo dico. Però volevo che non si sentisse il pipipipi. Che si sente? Perfetto, è quello che chiedevo. Chissà se il Cinemando farà una puntata su, su Navigator. Chiediamo ufficialmente. Ufficialmente mandiamo, lanciamo la cosa. Ora, non so se in chat ci sono Camilla, Roberto oppure Cosimo per risponderci a questa domanda. Per il momento mi sembra di no, quindi non ci potranno rispondere. Se ascoltate il podcast, fateci sapere. Comunque diteci. Ma non cambiamo argomento, okay. Piero, non mi fa... Scusa. Fai gesti. Allora, dicevamo, Barney Stinson, ecco. Trascinatore, eroe e conquistatore. Basta, ci stai mettendo troppo, una canzone. Conquistatore di donne, sempre in precoito, come dice qui, no? Sempre, sempre. Curiosità, è gay. Cioè, l'attore... Che si chiama? È Froschio. Non lo so... Non puoi dirmi la curiosità e non sapere il nome dell'attore, però. È Neil Patrick Harris. Tra l'altro, lo sai che l'ultimo Saturday Night Live gliel'hanno dedicato? Hanno fatto una puntata solo a Neil Patrick Harris o Barney Stinson? A Neil Patrick Harris, naturalmente. Barney Stinson ormai gode di vita propria, eh? Sì, sì, ha anche un suo blog. Sì, poi se ne parla. Poi se ne parla, ok. Altra curiosità, se posso dirlo, il fidanzato dell'attore. Curiosità, intanto ci passano cartelloni che diremo dopo. È il fidanzato dell'attore che fa Barney Stinson, è presente in questa serie e fa l'amante, diciamo, non l'amante, l'uomo innamorato follemente di un'altra dei protagonisti di questa serie, ovvero di Lily. È Scooter, il famosissimo Scooter. Non è spoiler, perché ci avete abbonato 3 serie su 6, 3 serie ci avete abbonate. 3 stagioni. È nella prima. Ce l'avete Scooter abbonato. È nella Scooter prima. Arriva nella prima, posso dirvi anche cosa fa. Cosa fa? Vabbè, non lo dico dopo la canzone. Manda i belle Sembastian, vai. E Sembastian? On a beach tree with a car and say love me. Why did she do it? Was she scared? Oh man. Her. Dude, you can't call her. You have to wait 3 days to call a woman. That's the rule. Barney, that rule is completely played out. Girls know exactly what you're doing. Hey, I got a new rule. It's kind of crazy, but I call it, you like her, you call her. I'm sorry, can you repeat that? I don't speak, I never get laid. Barney, the 3 days rule is insane. I mean, who even came up with that? Jesus. Barney, don't do this. Not with Jesus. Seriously, Jesus started the whole wait 3 days thing. He waited 3 days to come back to life. It was perfect. If he'd have only waited one day, a lot of people wouldn't have even heard that he died. It'd be all, hey, Jesus, what up? And Jesus would probably be like, what up? I died yesterday. And then they'd be all, you look pretty alive to me, dude. And then Jesus would have to explain how he was resurrected and how it was a miracle. And then the dude would be like, okay, whatever you say, bro. Wow, ancient dialogue sounds so stilted now. Then he's not gonna come back on a Saturday. Everybody's busy, doing chores, working the loom, trimming their beards. No, he waits the exact right number of days. 3. Okay, I promise. I'll wait 3 days. Just please stop talking. Plus, it's Sunday, so everyone's in church already. They're all in there. Oh, no. Jesus is dead. Then, bam, he bursts through the back door, runs up the aisle. Everyone's totally psyched. And FYI, that's when he invented the high five. Ooh. 3 days, Tim. We wait 3 days to call a woman because that's how long Jesus wants us to wait. True story. True story. Momenti di teologia agli spazi. True story. Ora spieghiamo quello che è successo al bar, luogo di incontro di questi quattro amici. Sempre qui a questo bar, non mi ricordo il nome però, Piero, del bar, te lo ricordi? McLaren's. Al McLaren's, giusto. Che ospiti preparati. Mamma mia, mamma mia. La gente sa. E Barney parlava, quindi avete sentito com'è doppiato male? Posso essere sincero? Sì, infatti la versione inglese, cioè, rende molto di più. È che hanno usato dei quindicenni per doppiare dei trentenni, che non torna. Cioè. Direi di no. E cosa succede, Frankie? Spiegacelo. Ah, qui Barney vuole dire a Ted di aspettare 3 giorni per richiamare una ragazza che gli aveva dato il numero. Giusto. Perché lui dice che bisogna aspettare per regola 3 giorni. E chi l'ha inventata questa regola? Questa regola è stata inventata proprio da Gesù. Addirittura. Addirittura. O come mai? Perché giustamente. Spiegazione escatologica. Vai, vai. La spiegazione è questa. Lui è morto. Ma Gesù. Aspettato. Gesù. Gesù. Stavamo parlando. Pensavo farmi soggetto. Gesù è morto. Ma non è resuscitato il giorno dopo, ne ha aspettati 3. Perché se fosse resuscitato subito, nessuno avrebbe saputo che era morto. E quindi il miracolo non sarebbe stato. Non sarebbe circolata la notizia. Non sarebbe circolata la notizia. E quindi che miracolo è? Come va Gesù? Beh, sono morto ieri. Ma nessuno gli crederebbe. Mi sembra abbastanza vivo Gesù. Invece 3 giorni. E invece con 3 giorni se la faceva sabato e succedeva. E poi ha aspettato 3 giorni perché così era già domenica. E ma la gente era già in chiesa. Invece sabato tutti erano tutti le cose, a casa. A pulire, a fare le pulizie. Tagliarsi la barba. Erano già in chiesa e mentre tutti erano in chiesa tristi perché è morto Gesù, lui è entrato dalla porta secondaria correndo e ha dato il 5 a tutti. inventando il batticinque. È la regola dei 3 giorni. È la regola dei 3 giorni. Tutto in un sol colpo. Tutto in un sol colpo. Ma era Gesù, mica uno poi ha fatto qualcos'altro sul cristianesimo, ma è il finale stupendo. Noi dobbiamo aspettare 3 giorni per chiamare una donna, perché 3 è il numero che Gesù vuole che noi aspettiamo. È Gesù che ce lo chiede. Cioè, quindi a quel punto non true può. Story. True story. True story. True story. È qui, true story. Giusto. Dimmi, non sono d'accordo. a prescindere. Vabbè, se l'ha detto Gesù, è uno, cioè. Può crederci o meno, ma sappiate da dove deriva questa regola. Ma chi è che doveva aspettare 3 giorni? Ted Mosby. Lo sfigato di turno, diciamolo. Ah, quindi è sfigato. Ma perché è sfigato? Ma perché gli piacciono le donne. Poi si innamora di tutte che incontra per meno di 5 minuti. Pensa sia la donna della sua vita, la madre, appunto, dei futuri figli. E poi finisce male. Sempre male gli finisce, poveraccio. Ma quanto male? Male. Un'escalation, veramente. Un'escalation di dolore. Il dolore che sarebbe troppo spoiler dire quello che succede nella terza. Nella quarta, quinta stagione. Ok. E quindi non si dice. No. E quindi c'è Barney che cerca di dargli dei consigli. Ah, interessante, se non sono riuscito a trovarlo. Mm-hmm. Lo spezzone quando Barney incontra per la prima volta Ted. Sì. Ted è un ragazzo che sta al McLaren con il pizzetto, è tutto sfigato, è tutto al tavolo. Casualmente incontra questo tipo. Dove in lo bagno. Incontra? Come vestito? Ah, sì, si dice dopo. Ah, ok. Vestito bene, Barney si veste bene, poi spieghiamo perché. E, incontra questo tipo e dal nulla gli dice cosa deve fare per conquistare una donna. Coliterano le 3 regole? Le 3 regole sono... levati il pizzetto, perché non si intona con la camicia. Giusto. Ma io non ho una camicia. Comprati una camicia e una giacca. E vesti bene. Appunto. E la terza è non sposarti prima dei 30 anni. Sarà profetica questa frase? Credo di sì, visto che sono passati diversi anni dall'inizio della serie e ancora non si è sposato. Quindi Tommy, secondo me puoi mandare anche un pezzettino musicale. Ah, no, mandiamo però un pezzettino tutto. Dagli spezzoni. Uh-huh. E una canzone di Robin Sparkles. Chi è Robin? Si dice dopo, si dice non dopo. Io manderei non... Si dice tutto dopo, tendenzialmente. Stasera. Non Sand Castles, ma l'altra. The Mole. The Mole. Dov'è The Mole? Che forse non c'è. Cioè, dovrebbe essere questa cosa. Perché è un po' più allegra. Io non la vedo. Allora, intanto lo dico, Robin è la protagonista del... Una delle quattro protagoniste femminili. Esatto. E nel film, non mi ricordo se è spoiler o meno, lei si scopre aver fatto inciso dei pezzi. Uh-huh. E questo, uno di questi pezzi è questo, che si dice che è Let's go to the mall, andiamo tutti quanti al supermercato. My home. Robin Sparkles. You can't call her. Oddio, you have to wait. È ripartita la regola dei tre giorni. Ci è piaciuta così tanto che volevamo riproporre. No. Poi in inglese è andata a volte Jesus, the high five, true story. Quindi bel pezzo. Andiamo tutti al supermercato, che pezzo. Non dimentichiamoci del robot. Let's go to non dimentichiamoci. Don't forget the robot, ci ricordavano in chat. Quindi possiamo un attimo introdurre questo nuovo personaggio. Robin, canadese. Chi è? Diciamolo subito, spoileriamo, tanto si vede la prima puntata. È la ragazza dei sogni di Ted. Cioè, Ted vede sta tipa e se ne innamora subito. Ma per due ma secondi proprio... la vede, cioè non di più. E perde la testa. Ma nel vero senso della parola, fa cose improponibili. Nel vero senso della parola vuol dire che tipo la usa come pala da bullying la testa. Quindi io non direi le carpaccio. Ma come si incontrano? Come si incontrano? Si incontrano al bar, ovviamente al bar. Al Beclare. Succede tutto lì. Succede tutto lì. Ted parla con Barney e vede Robin. È più pub che... È più un pub che un bar, sì, vabbè. Però è aperto sempre. Per essere preciso. In stile americano, con le americanate lì. Sì, dai, via, solo un bar, dai. Va bene. Per gli amici è un bar. Anche se c'è scritto pub sopra. Scusate. Sotto gli etti. Ma tutti gli ora volevo, non c'entra niente con quello con cui stiamo parlando, ma parlerete del personaggio principe, secondo me, perlomeno della prima stagione, che è il tassista. Rajit, l'indiano. Però ci arriviamo con calma. Ma ne parlerete, no? Sì, sì, certo. Ok, grazie. Cioè, è nella lista delle è nella lista, se guardi. Quindi, grazie, tranquillo. Grazie. Ah, ecco la lista, sì, sì. Quindi, questa è Wikipedia. La lista c'è, è il formato Word. Non ci crede nessuno. Ma come? Qua. Barney. Regole, Barney giocatore, true story. Spoiler. Tutto spiego. Per punti. Facciamo una trasmissione per punti. Pigiamo vestaglia. Tutte cose. Aiuto. Avvocatizzato. Dicevamo, Robin, questa è canadese. Canadese, e poi sul fatto che lei sia canadese. Mm-hmm. Allora ci giocano tantissimo. Infatti, ci montano delle puntate, ci montano su. Ma perché? Cioè, perché gli americani vedono i canadesi come degli esseri inferiori, fondamentalmente. E i canadesi. Sì, sì, sì, va bene. Guardi come si andano su. Mi sa che è un po' canadese lui. Mi sa che è un po' canadese. Un pochino. Diciamo perché sono un po'. Perché sono troppo buoni, secondo loro. Poi a New York, figurati. Cioè, la cattiveria è. Alle stelle, quindi uno buono che lascia la porta aperta è visto come alle un babbo. Alle strisce. Vabbè, basta. Lasciamo stare, infatti. Andiamo avanti. Perdonate, Tommaso. È appena tornato da Marsiglia il jet lag, sapete, per dire delle cose. Non era mai... nella malavita di Marsiglia lui, infatti. È scappato. Quindi, Ted si innamora di questa Robin, che è una giornalista, tra virgolette, perché fa... Perché la domanda è una giornalista? No. Era, cioè, in effetti all'inizio perché fa delle cose abbastanza, cioè la cioè, cosa è una tipo, TV abbastanza a basso costo come questa radio, fondamentalmente. Anche Let's Go to the Mall, diciamo, non è che è proprio iniziato come giornalista. Non ha fatto una grande carriera. No, almeno fino alla sesta serie non è che faccia poi così. Però lei ci prova. Stagione, scusate. Sì, ci prova, ma anche all'estero. Basta, di qua. Spoiler. No. Estero. No. Va bene. No, se non dico cosa succede. Infatti. Quindi, Ted si innamora di lei. Lei se lo fila a zero all'inizio. Esatto. La scintilla quando nasce. Quando nasce. Proprio nella prima episodio. Nel primo episodio, sì, è vero. Poi Ted rovina tutto. Sempre nel primo episodio, quindi non è spoiler. Sì, infatti non è spoiler. Perché lo diciamo? Lo diciamo. Perché gli dice, sono innamorato di te. E non si dice a una donna che... È inconosciuto da 2 ore. E infatti anche i figlioli del Ted Mosby del futuro. Sì. Gli rimprovano questo atto. Papà. Ma sei un minchione. Ma sei veramente un idiota. Cioè. E quindi Barney giù a dare consigli, a dirgli di vestirsi bene. Fino a quando poi qualcosa succede con questa. Con chi? Che con qualcuno. Beh, dovrà succedere, altrimenti è proprio super sfigato. È la storia di un suicidio, questa serie, tipo. No, Ted ha diverse donne. No, ma che poi però forse è la gestione delle storie. È la gestione del rapporto. E sì, ora già dalla chat si dicono fantastico, awesome. E cioè abbiamo un pezzo fantastico su awesome. Su l'awesome. Bellissimo, si parla di una parola, è incredibile. No, il problema di Ted, la gestione sicuramente, è che... mi sono scordato. Ah, mi piace, è un grave problema, è la memoria quello il tuo invece, no? Ho dimenticato... Non sappiamo il problema di Ted, ma sappiamo il problema di Mario. Questo no. Come quello che fa, dottore, no, mi dimentico le cose, si dimentica le cose, mi dimentico le cose! È una cosa del genere, più o meno. Radio Barzelletta, abbiamo trasformato il programma, è fatta. Di... No, niente. Vai, vai. No, tranquillo. Vabbè, insomma, il problema... Se posso permettermi, era una barzelletta leggendaria. Legend, wait for it, Dairy. Sì, ma dalla chat ci mandano le cose, le parliamo, state tranquilli. Cioè, tutto tranquillo nella lista. Tranquillo, Inef, che abbiamo tutto nella lista di qui sopra. Sì, esatto, c'è tutto. C'è tutto. State sereni. E mandiamo il pezzettino allora sull'awesome, che dura poco, se riusciamo a trovarlo subito. Okay. È il curriculum di Barney. E il curriculum, appunto, dove Barney Stinson si cerca di vendersi, di vendere il suo lavoro, che non si è mai capito qual è. Esatto. No, no, non è quello. Sì, no, vabbè. Questo qua. That guy awesome. Okay. E un attimo che arriva. Il curriculum di Barney Stinson. Con questa musica io indirei un concorso, chiunque riesca a dire awesome così rapidamente di fila per almeno 15 volte vince il premio. Ora lo compro qualcosa per chi ci è veramente incredibile. Con questa canzone è un video improponibile dove lui cerca di cavalcare onde, moto, si lancia con paracaduti, cascate di awesome. Esatto, ci sono le cascate con le scritte awesome ovunque. Con questo è il curriculum di Barney Stinson, che lui consiglia a Robin quando ha problemi con lavoro. Dice, perché non fai un curriculum come il mio? Così, che troverai lavoro. E funziona un pochino. Trova anche Ted trova lavoro. No, Ted no. È Robin, Robin che cerca lavoro e in un giorno con un video di questo tipo, che però non vediamo, riceve 3 offerte di lavoro. Solo in un giorno? Solo in un giorno. Incredibile. Perché cavolo. Barney è fantastico. E ovviamente Barney le rifiuta 2 e la terza contratta, rischiando di far tornare Robin in Canada, che se non trovava un lavoro entro quella giornata avrebbe perso il suo permesso di soggiorno. Esatto. Però Barney, essendo un uomo awesome, ci riesce. È bello anche vedere quando chiedono che lavoro fai Barney, lui risponde sempre please. Cioè, come per dire, non mi metto qui a spiegare il mio lavoro. E non si è mai capito. Eppure lo vediamo il suo luogo di lavoro, ma sì, non capiamo cosa fa. Parla con cinesi, con gente... lui lavora in banca, fino lì. Sì, ma cosa fa? Per una banca. Per una banca. La Goliath National Bank. Esatto, però più di tanto non sappiamo. So che ha affari molto loschi, da quello che ho capito. Sì, diciamo, non è una banca, diciamo, non è la banca etica. Diciamo. Non è nemmeno la banca del seme, per quanto lui... Non è anche la banca del sangue. Esatto. È una banca, appunto. Una banca. E per introdurre il terzo personaggio, il terzo e il quarto, perché la coppia è solidissima, mandiamo prima spoiler. Ma. Te lo sei fatto da solo, eh? Vabbè, comunque nel complesso è solida la coppia. Sì. Dopo ogni coppia ha i suoi periodi di spoiler, di crisi. Allora, io manderei una canzoncina a piacere della colonna sonora. Sì. E poi mandiamo la canzone che Marshall, il terzo, dedica a Barney. Pensavo a lui. La canzone dello schiaffo. Questa è Big Sugar. Is she really going out with him? anche questa canzone che canzona che era i Big Sugar con Is She Really Going Out With Him. Bene, siamo, tocca a noi. Sì. Siamo solo noi qui. No, perché ora non ho le cuffie, quindi non so cosa succede in radio. C'è silenzio. Per me c'è silenzio. Anche per me. Allora, e gli schiaffi. Mi piace gli schiaffi. Cioè, io adesso prendo e ti do uno schiaffo. No, il protagonista della serie. Gli schiaffi, è un personaggio. Gli schiaffi. Beh, ci sono degli schiaffi. Facciamo che me ne dai 10 subito o 5 diluiti nel tempo? Io che li do a te? Sì. 5 diluiti nel tempo. È quello che succede nella serie. Tra chi e chi? Tra Marshall e Barney. Barney, mi dispiace parlare sempre di Barney, ma è onnipresente. Tutto ciò che succede, succede per Barney. Sì, infatti. Per merito o per colpa di Barney. È il deus ex machina, possiamo dire. E insomma, possiamo dire che Barney e Marshall fanno una scommessa. È una schiaffommessa. Ovvero che chi perde si prende uno schiaffo. Okay. Ma che schiaffo si prende? Un bello schiaffo, una bella pizza, possiamo dire. Una bella pizza che te ne sta il segno per un mese. Tra l'altro Marshall è anche ben messo. Diciamo. Sarà, famiglia, lui è il più basso, è 1,90 m almeno. Perché lui è dell'Ohio, no, del... Beh, tanto che ne sappiamo. È di un paese, no, è importante, perché comunque è importante da dove proviene. È importante. Perché comunque sono i contadini dell'America. Oklahoma. Qualcuno mi nomina su un chat. Dovrebbe essere i contadini dell'America, fondamentalmente, cioè quelli che noi chiamiamo contadini. Nessuno sta controllando su Wikipedia, tranquillo. No, sì, tranquillo. No. Minnesota. Minnesota. Cosa vuol dire? Ok, quindi il più basso è 1,90 e fa questa scommessa con Barney. Ma è una scommessa seria, cioè c'è anche un giudice. Anche un giudice che è Lily, esatto. Ovvero la moglie di Marshall. La moglie? La futura moglie, forse, insomma. Beh, ora. Va bene, bene. È la fine della seconda serie. Allora, gli avete detto che potevo dirlo. Io ho chiesto. Vabbè, ok. Comunque. Vabbè, Lily che forse è innamorata di Marshall, mettiamola così. La compagna di Marshall. E quindi fanno questa scommessa. Barney dimostra di aver vinto e schiaffeggia Marshall, ma era una prova fasulla, non era vero, non aveva per niente vinto, e quindi Lily, per punirlo, gli dice: vuoi 10 schiaffi adesso o 5 diluiti nel tempo? E lui dice: vabbè, sono 5, ne prendo 5. E questo però è un'arma a doppio taglio, perché sì, ne prendi 5, ma non sai quando ti capita, e quindi nel giorno nell'ora. Da quel giorno vive nel terrore di prendere uno schiaffo. Lo schiaffo da Marshall. Ci scusiamo per il mega spoiler, perché in chat si dice: ma questo è un mega spoiler. È vero, però è bello dirlo. Però se succede nella seconda serie non è spoiler. Non è spoiler. Avete detto? Allora, in TV in Italia lo stanno dando per la seconda volta e sono alla terza serie. Quindi, okay. Se non è spoiler, però, definizione di spoiler. Qual è la definizione di spoiler? Vediamo se avete seguito la prima puntata. Spoiler è quando io dico qualcosa della serie TV e che gli altri non sanno. Ok. E io che ne so cosa sapete? È spoiler. Beh, uno si immagina che chi ascolta non sa. Appunto. Ho capito, allora non facciamo la puntata. No, se ne parla, no, però è spoiler. Ah, ok, allora. Dalla chat mi giunge una domanda. Vai. A quanti schiaffi sono arrivati fino alla sesta stagione? E questo non è spoiler. Questo è spoilerissimo, non te lo dico, In F non te lo dirò sono mai. Sono arrivati a 6 su 5. Comunque, dicevamo. Quindi la scommessa, quindi c'è l'ansia, l'angoscia di quest'uomo di vivere con uno schiaffo da un momento all'altro. Scusa. In F, se lo sai quanti schiaffi sono arrivati perché fino alla scuola, ce lo chiedi? Perché vuole rovinare tutto agli altri che non l'hanno visto, che non ci sono arrivati. No, ma non lo diremo. No. Tanto definizione di spoiler anche in chat. Comunque, per uno di questi schiaffi, sì. Marshall compone una delle sue tantissime canzoni, ma ne comporrà non so qua. C'è anche chi è quest'uomo dello spoiler? No. Bruce Mayer. Allora, vi consiglio, amici che ascoltate, di andare a cercare le foto di Russ Meyer e Roger Ebert del 1970. Due personaggi alquanto singolari, molto divertenti, che fanno parte della classe spoiler, non so per quel motivo. Lo scopriremo solo leggendo, ma non adesso. Comunque, Tommaso, DJ, se mi mandi il pezzo, forse è meglio. Quale? You Just Got Slapped. Cioè, hai appena ricevuto uno schiaffo. This feeling that's put you in your place, a hot red burning on the side of your face. You feel the blood rush to your cheek, tears start to fill your eyes. Your lips, they're trembling, but you can't speak. You're trying, oh, you're trying not to cry. You just got slapped across the face, my friend. You just got slapped. Yes, that really just happened. Well, everybody saw it. Ha! Everybody laughed and clapped, 'cause it was awesome the way that you just got slapped. Oh, eccoci. Questo era Marshall che ci cantava "Hai appena ricevuto uno schiaffo" dalla... Che c'è, Piero? No, niente, sono un po' triste oggi, ma mi riprendo, tranquillo, è una bella puntata. Che è successo? No, nulla, Oh, se voi siete i conduttori e non mi conducete, io devo dire... Allora, stavi parlando, andava bene, perché ti devo interrompere? Fai facce brutte. No, no, non era per te, tranquillo. Aiuto, non ci vengo più a fare un ospite. Mannaggia a me quando vedo le serie TV. Ma come? Serie TV è bello, diciamo, no, è un messaggio positivo. Comunque... Marshall e Lily stanno assieme. Parliamo di questi due personaggi che ancora detto, li presentiamo, ma ancora. Okay. Si incontrano all'università, questi due. Ok. E si fanno. E mangiano tanti panini. Cosa mi sembra proprio che descrizione. Allora, mangiare panini in How I Met Your Mother ha il. Vuol dire farsi le canne. Però, siccome Ted. Cioè, bisogna immaginarsi che tutta la storia che vediamo è un racconto di un padre e figli quindicenni. Ah, ok. E quindi, siccome non può dirgli noi, io e vostri zii ci facevamo le canne, dice io e vostri zii mangiavamo tanti panini. Quindi è bello vedere magari loro che hanno dei sandwich enormi, però strafatti. Del tipo, oh, abbiamo visto Apocalypse Now con i Pink Floyd di sottofondo. Cosa vuol dire questa cosa invece? Mentre mangiamo panini. No, no. Ah, ok. Siccome mangiavano i panini, facciamo delle cose assurde, tipo guardare Apocalypse Now ascoltando i Pink Floyd sotto e vedere quindi mostri aggiunti a quelli di Apocalypse Now. Comunque, quindi all'università, Marshall, questo omone del Minnesota, incontra Lily, una artista un po' punk, un po' stravagante, che dice: ma possono stare assieme questi due? A quanto pare sì. Chi sono gli attori che interpretano Marshall e Lily? Ora chiedi troppo. Perlomeno per cosa è famosa Lily. Marshall lo interpreta Jason Segel. Bellissimo. Per cosa è famosa Lily? Allora, Marshall. Vabbè, intanto. È una alla Lily volta. Invece è Allison Hannigan. E non so perché sia famosa. Vabbè, come è ovvio. Allora, a parte che. American Pie. Ma insomma. American Pie? Sì. Non ho mai visto American Pie. Vabbè. Non lasciamo so se quelli di Cinemando l'hanno visto, però. Diciamo dovrebbe essere. Altri gusti cinematografo. Comunque, si incontrano all'università, sti due. Mm-hmm. E fra un panino e l'altro, fra anche una, diciamo, un amore e l'altro, consumato sopra il letto di Ted, poveraccio. Letto a castello. Visto che c'è il letto a castello fra Ted e Marshall. Sotto al letto di Ted. No, perché Ted stava sotto. No, stava sopra. Stava sotto. Ah, ma comunque. Accanto a un terzo uomo che dormiva, provava a dormire, loro consumavano le prime cose. Vabbè. Dimenticandosi che essendo un letto a castello, muovendosi quello sotto, quello sopra si muove di conseguenza. C'è poco spazio nell'università americana. Quindi vanno comunque poi a New York, appunto, e lì iniziano a convivere insieme a Ted. Infatti la prima stagione sono in casa, in una casa fantastica, oserei dire, che è sopra il pub, e questo penso sia il sogno di tutti, avere il pub preferito con tutti gli amici e avere la casa sopra il pub. È un po' come avere la casa sopra la radio. O avere la casa sopra la tana. O avere la casa sopra o avere la casa sopra l'orzo bruno. O avere la casa sopra l'orzo bruno. Vedi, io però ho la casa sopra il mio cantina e bar. O avere la casa davanti al bar nord. O avere la casa più o meno. Pop, pop. Diciamo che non sono posti come il McLaren, cioè in cui non ci passi le giornate. Però il concetto è quello, dai, diciamo che più o meno. Io c'ho la casa sopra sopra il Lungarno, cioè sopra no, c'è un pub sotto casa mia. Beh, L'Ambarabà, che è sempre chiuso, più o meno. Oppure aperto. No, ora fa le offerte. Non fidatevi. Grigliate. Non fidatevi. A sbafo, 14 euro mi sembra. È una truffa. Spero non ci ascoltino quelle dell'Ambarabà. Sai. Quindi, che c'è? No, qua abbiamo, stiamo guardando le percentuali di telespettatori che ha avuto. Ah, metti un male. Dimmele, Piero, dimmele. No, lei dice lui. Però siamo sempre sopra gli 8 milioni di telespettatori negli Stati Uniti e basta. Soltanto negli Stati Uniti, queste sono le statistiche. Poi ci siamo almeno noi quattro in Italia. che differenza. 8 milioni e 4. Ma poi c'è INEF nella chat. A quanto pare INEF sì, l'ha vista anche due volte. INEF c'è anche Andrea, credo, da alcuni commenti che ha scritto prima. Sì, che l'hanno già. Anche Viruzzo prima diceva. Ma qualcosa. Che hanno la casa sopra un pub oppure che vedono. No, che si aggiungono. Che si aggiungono. Quindi siamo almeno 8 milioni e 6 o 7. Vai, facciamo 8 milioni e 10, non se ne parla più. Vai, va bene. Cosa? Scusate, il muratore. Il muratore che sta seduto su un monitor. Comunque, va, vai con gli ascolti. Che è interessante anche vedere come cambiano nella terza stagione gli ascolti. Cioè si parte da 9 milioni e mezzo circa. Sì. Nella prima stagione, nella seconda si scende drasticamente a 8 milioni e mezzo, si riscende ancora a 8 milioni e 2 nella terza, nella quarta si risale, 9 milioni e 4. Quella è Naked Man che ha riportato su lo share. Nella quinta 8 e 6 e nella sesta 9 e 13. La sesta è mitica, fino adesso... Cioè, la sesta sì, la tanto sesta di cappello. Non delude, non awesome. La sesta è awesome e in più c'ha le tinte drammatiche che non guastano. Sì. Le tinte drammatiche, cioè... Muore gente. No, non è spoiler, non ho detto chi. Non ho detto chi. Ho detto non chi. Dite queste cose. Comunque, no. È bello, no. Per molti è la. È l'erede, cioè, questa serie è l'erede di Friends. E forse è vero. Sì. Beh, anche perché questa è cominciata nel 2005. Friends è finita nel 2000. Non lo so. Non lo so. 4. Ma più che. Io non ho mai visto Friends in maniera corretta. Non hai mai visto il Friends? Nel senso, non le ha viste in ordine. Esatto. Sa che non sa parlare. Mamma mia. Ma non riesco a comprendere. È quasi impossibile. No, l'erede di Friends in quanto comunque è la storia di questi amici, quindi sempre loro, le loro vicende amorose, le loro vicende lavorative. Però secondo me rispetto a Friends è meglio fatta la storia di fondo, la storia di base. Che regge di più tutti gli aneddoti che succedono in qualche modo. Mio modesto parere. Se e poi c'è Friends. E poi c'è meno gente che non guasta, perché Friends sono troppi e poi alla fine. Posso darvi un consiglio da spacciaserie? Se vi piace How I Met Your Mother, se vi è piaciuto in passato Friends, potete guardarvi la nuova serie TV che va in onda, non mi ricordo su che canale, che si chiama Mad Love. Più o meno lo stile è quello. Ci sono ancora meno personaggi perché sono in quattro i protagonisti. E gustatevela, perché è carina, è sullo stesso filo. E di cosa parla? C'è una ci sono due coppie in sostanza, una che si ama e l'altra che si odia. E sono tutti amici che stanno anche loro in un bar, lavorano, sono anche loro avvocati, tra l'altro, e altri responsabili e altri babysitter. Ora non posso dirvi tutto, se no parliamo di quest'altra serie. Allora, DJ, se se puoi, riesci a mandare The Proclaimers, la canzone I'm Gonna Be? Sì, che dovrebbe essere nelle canzoni, non lo so. Perché Marshall e Ted sono molto amici. Sì. Marshall e Ted sono molto amici. E sono così amici che fanno dei viaggi in macchina improponibili, lunghissimi. tipo 20 ore per andare a prendere un pezzo di pizza. Esatto, vanno da New York a Chicago. Dovrebbe essere in spezzoni, nella cartella spezzoni. Allora qui. Sì? E almeno io ce l'ho. The Proclaimer. No, non c'è. Mamma. Ah, è di là, allora, eccolo. La vedo. E vanno a prendere appunto con la loro macchinina che è la Fiero, che non so che macchina sia, penso sia una macchina americana. Vanno fanno viaggi appunto migliaia di miglia. E una volta in questa macchina, cosa sta succedendo? Non lo so, okay. Tranquillo. In questa macchina il mangiadischi non funzionava e andava soltanto questa canzone qui per 20 ore. The Proclaimers. Ora la mandiamo, ah, forse ci possiamo riuscire. Avessi fatto un avvio figo invece. Thank you. Ok. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get in, just be the man who walks. And the Proclaimers, I'm gonna be the man who walks 5,000 miles. Esatto. Più o meno. E cioè l'uomo che ha percorso 500 miglia. Immaginatevi da Milano a Reggio Calabria, come scrivono in chat, con questa canzone. E basta. Sempre. Senza mangiare panini. Soprattutto, che forse è la cosa peggiore. Beh, almeno vedi le buche. Infatti in quella puntata che arrivederci Fiero, sì. E si ricordano di questo viaggio e lo rifanno. No, non lo rifanno. No. Ed è bellissimo vedere come cercano di farsi piacere alla fine la canzone. Dicono, ora si riprende di brutto il pezzo, eh. Dice quando? Al finale cominciano a cantare. Ma come questa canzone messa 20 ore di seguito crei cambiamenti di stati d'animo improvvisi, sì, anche rabbia, poi paura. Poi dopo un po' la riapprezzi, poi dopo un po' non ne puoi proprio sopportare più e speri di arrivare in fondo vivo e non ammazzare il tuo compagno. Ah, tu ti ricordi, Frankie, l'aneddoto della macchina di Robin e Lily? Sul perché la macchina puzzava a un certo punto. A un certo storia. Punto la Fiero inizia a puzzare, ma pesantemente. E questo perché Robin come e mai? Lily... fanno un viaggio, un piccolo viaggio in macchina e decidono di mangiarci dentro e ovviamente sporcano completamente la macchina. Questo cos'è l'importante? Marshall non vuole che nella Fiero qualcuno mangi e quindi non sanno più cosa fare. Si inventano qualcosa per discolparsi e quindi spaccano i vetri della macchina e sporcano, mettiamo così, l'interno della macchina per far credere che sia stato un barbone o ci fumano il sigaro dentro per far sembrare che la colpa non è loro. E poi spaccano un altro vetro della macchina perché era divertente, esatto. che gente. Mi sembra giusto, cioè perché non spaccare un vetro della macchina? Beh, una volta che ne ha spaccato uno, ne spacchi due. Poi non c'è due senza tre. No. Il 426 si può, non ha più un vetri, compagnia, esatto. C'è un'allegria, insomma. Due vetri fanno 1000 euro almeno in Italia, non so in America quanto li mettono, però lunotto anteriore e posteriore 1000 euro comunque con Mastercard anche, ok, dicevamo. Sì, quindi questa è la macchina, l'unica macchina che hanno in 5, penso, sì. Tranne che Ted, sì, una puntata decide di comprare una macchina che rivende più o meno il giorno dopo perché non riusciva mai a utilizzarla, perché una volta parcheggiata non la utilizzava, quando un parcheggio a New York è qualcosa di impossibile da trovare. Penso sia, sì, forse diciamo il livello di difficoltà è come a Pisa ora in centro. True story. Chiedete chi ha la macchina. Aspetta, c'è un signore con la macchina qui, se vuole intervenire passategli a dire il microfono. Quanto è difficile parcheggiare a Pisa? È facilissimo parcheggiare a Pisa. Come perché fa? Semplice, entro in ZTL controsenso. Ma c'è il permesso? No, non ho il permesso. No, basta andare in retromarcia e si vuole nessuno dire anche ti i parchi che... Certo, guardate, allora, quando andate praticamente, no, siete la via quella... Mi sa che dobbiamo dirlo giusto per... Sì. Per correttezza. Radio Ciclette si dissocia da quello che l'ospite dice. Okay, noi non siamo mai stati in macchina con lui quando succedeva una cosa del genere. No, no. Sapete quando prendete, siete a Piazza dei Miracoli, no? La sapete via Cardinal Muffy? No. Per gli amici via Cardinal Muffin, no, facciamo un piccolo, vai, una via che collega Piazza dei Miracoli con Bagna di Nerone. Entrate in quella via e subito sulla destra vedete il varco elettronico e dite: oh no, non si può entrare in ZTL. Ma no, andate più avanti, ci sono le uscite, non c'è il varco elettronico, fatela in controsenso ed entrate in ZTL, capito? Rischiate un incidente con quelli che allora, rischiate un incidente perché siete in contromano e rischiate le multe perché siete in ZTL senza pass. La targa, per favore. La targa, un attimo, non mi viene in mente. Volevo dire la targa di Enrico, però non me la ricordo. Evitiamo di mandare in galera gente che... Tanto è carabiniere Enrico, non se la prenderà. Comunque anche questa era true story. Sì, è true story. Vedete come siamo... Come siamo international? Come siamo sul pezzo. Come siamo sul pezzo, esatto. Come cavalchiamo l'onda. Comunque, bene. No, per quanto riguarda gli ascolti, sì. Diciamo che la terza serie è stata un po'. Guarda come mi ricollego a una cosa vecchia: Jumping the Shark. No, no. Pochino, allora aspetta. No, Jumping the Shark vuol dire che poi scende e la chiudono. No, tanto basta. Fa schifo quel l'inizio. Poi giusto lì, è stato approvato a saltare lo squalo, poi non ce l'ha fatta. Ok. Perché la terza serie è un po' di transizione, no? Più puntata su Barney. Hai visto? Ho ascoltato la puntata in cui c'era quell'ospite. Cioè, Happy Days. Cioè, faccia serie è diventato il programma di Mario. Cioè, si fa il programma, se lo cita. Ma voi mi invitate? Io non posso dire no. Ma noi ci divertiamo, va bene così. Io mi auguro che voi vi divertiate. Sempre e comunque. E quindi? Di che stavamo parlando? Del fucking jump dello squalo. Ah sì, perché ascolti, la terza serie è un po' cala di ascolti. Terza no? stagione. La terza stagione è un po' di con gli ascolti. Perché è un po' di transizione, non succede niente di che, diciamocelo. E poi è tutta su Barney, insomma, un po' troppo su Barney. Diciamo che la cosa figa della terza stagione è che inizia dove era finita la seconda. Sì, esattamente. Ovvero metà frase viene detta nella seconda, sì. La e poi c'è il wait frase. For it. È vero, non ricordavo. Beh, possiamo dire che la terza stagione serve un po' per far vedere che il tempo passa, ma per non cambiare niente. Quindi sono quasi episodi un po' staccati uno dall'altro in cui Barney va per la maggiore. Esatto, anche si inventa cose in me. Ho paura solo a parlarne. Tipo il libro delle regole. Ma voi lo sapete che è commercializzato questo libro? Sì, allora, la cosa figa di How I Met Your Mother è che molte volte si vedono citano dei blog, dei siti, dei libri riguardanti loro, i personaggi, no? E esistono, cioè esiste il sito di Ted Mosby è un coglione, Ted Mosby is a jerk, esiste il sito di Sposta, Ted Mosby is not a jerk, esiste il blog di Barney, se andate sul sito della CBS lo trovate. Esistono i libri che Barney ha scritto, il codice dei fratelli e il playbook. E il codice dei fratelli è fantastico, ci sono delle regole assurde inventate da Barney su come rimorchiare le donne, su come si comporta fra fratelli, su come si è spalle dell'altro. E invece il playbook è più o meno una raccolta di come rimorchiare, di come si ciuccia. Intanto io sto cercando di contrattare con un ascoltatore in chat di prestarmi il suo brocode che è a sua volta prestato da un altro amico. Ah, perché qualcuno c'ha il brocode? Sì, l'hanno già dovuto restituire però. In F ti stimo tanto se c'hai il brocode. Ma non è suo. Vabbè, comunque però se l'hai letto. Per aver letto. Infatti. E c'è anche il sito, mi sa... Il video resume di Barney, cioè il come si dice? Sì, il curriculum vitae di Barney, video. Ah, nel playbook dici? Fra i tanti link che esistono. Che puoi trovare a giro su internet. Okay. Se andate sul sito del Baratro, se scrivete How I Met Your Mother, il Baratro, in fondo alla pagina ci sono tutti i link a queste cose appena citate. Oltre a esserci link per vedere in streaming in inglese, ovviamente, su Ita la puntata appunto della stagione che volete vedere. Infatti il sito è aspetta perché stavo in ho trovato il baratro.blogspot.com. In chat è già stato linkato da Tommaso che è da lì andate. Poi fantastici sono gli aneddoti. Cioè le aneddoti, le frasine che ricorrenti, come si dice? Un esempio. Have You Met Ted? Oltre a Legendary e Awesome, Have You Met Ted? Cioè il modo in cui l'approccio, Barney cerca di far approcciare Ted. Cioè va da una donna sconosciutissima e gli fa: scusami, conosci Ted? E se ne va. Perché Ted, secondo Barney, potrebbe essere la spalla perfetta. Meno che un giorno succede che c'è un piccolo litigio e quindi Barney decide di cambiare spalla. Questo è un po' spoiler, spoiler. Che è tutta una puntata basata su questa cosa. Non si è ancora detto cosa è successo. Si dice, beh, questo è il preludio, come dire. Per arrivare a cosa? Alla spalla che dovrebbe dire Legendary. Marley lo taglia in Legend, Wait for it, Derry. La spalla marcia di Barney, la nuova spalla, dice: oh, ho imparato Legend, wait for it, Derry. Quindi è come se avesse detto Leggenda, aspetta, Dario. non ha assolutamente senso. Quindi, se vuoi mandare un pezzo, Tommy, a scelta, fallo pure. Tanto. Ok, mandiamo Freddy Quinn, My Bonnie Lies Over the Ocean. Questa my sarebbe spoiler. Oh, bring back my Bonnie to me. I know what you're thinking, what's Bonnie been drinking? That girl was smoking hot. Yes, I could have nailed her, but no, it's not a failure, cause there's one thing she is not. To score a 10 would be just fine, but I'd rather be dressed to the nines. It's a truth you can't refute. Nothing suits me like a suit. Picture a world where all the boys and girls are impeccably well-dressed. That delivery guy in a jacket and tie, that puppy in a double breast, that 80s dude with mutton chops, that baby with a lollipop, that lady cop who's kinda cute. Nothing suits them like a suit. Wingman I can wear, they're oh so debonair. The perfect way to snare a girl with daddy issues. In navy blue or black, check out this perfect rack. I want to give them a squeeze. Oh, really? Then answer these questions, if you please. What would you do if you had to choose between your suits and a pot of gold? Suits. What would you say if you gave your suits away and in return you'd never grow old? Suits. What would you pick, 1 million chicks or a single three-piece suit? It's moot. What if world peace were within your reach? I'm gonna stop you right there. It's suits. Come on, Lily. Get your head out of your ass. Two, three, four! Girls will go and girls will come, but there's only one absolute. Every bro on the go needs to know that there's no accepted substitute. I'm sorry, suits, let's make amends. My Sunday best are my best friends. Send casual Friday down the laundry chute. Cause nothing suits the undisputed absolute suitor of for it. Rieccoci qui. Che cos'era sto pezzo? Nothing sweets me like a sweet. Intanto gli ospiti mangiano qui, quindi sì. È difficile parlare, intervistarli mentre mangiano. Ospiti. Se sbafano. Che è? È una canzone che Barney, per la 100ª puntata di How I Met Your Mother, dedica ai vestiti. ai completi, quindi giacca, cravatta, pantaloni a modo e camicia sotto. E la canta perché a un certo punto, si può dire, prima di farmi spoiler. No, io te lo faccio, poi... Io lo dico comunque. Vai. In una puntata a un certo punto è costretto a decidere tra una donna e i vestiti. Vabbè, cosa farà? Non ve lo dirò. Lui soltanto però scrive un pezzo e canta questo pezzo per i vestiti, perché lui, il suo amore verso i vestiti, ormai è innato. Deriva da quando era ancora un giovane ragazzo, che dopo la fine del suo primo vero amore, forse il suo unico vero amore, trovandosi disperato per strada, trova un foglietto, un volantino che gli viene passato, dove c'è scritto Suit and Save, ovvero vestiti bene e salvati. E lui, per dare un taglio netto alla sua vita, decide di comprarsi un vestito, e da quello sarà il primo di centinaia, forse migliaia di vestiti, di completi, diciamo, che indossa quotidianamente. Addirittura indossa un pigiama che è un completo. Un completo con tanto di cravatta, che è un'angoscia, dice che dorme malissimo, si risveglia e sta male, però per dormire, per essere elegante in ogni momento, devi dormire con un completo. Mi sembra giusto. Cioè. Okay. Parliamo dei vestiti, parliamo anche di nudità. E quindi Naked Man, Piero. Naked Man, ti dico 409. Naked Man cosa... Piero lo sa a memoria, pensa Naked Man. L'ho fatta vedere a qualsiasi persona. Mi diceva, guarda Naked Man ancora prima di guardare la serie. Ma che è un episodio staccato, che può essere visto anche da chi non segue la serie TV. E comunque impressiona, è fantastica. Tommy, tu ancora non l'hai vista, io ti ho detto guarda. Sono guarda. Mi dispiace, ma devo fare un attimino dei spoiler. Perché Naked Man merita lo spoiler. Vai. Allora, il consiglio di Naked Man è questo. Funziona 2 volte su 3. 2 su 3. Assicurato. 2 out of 3, guaranteed. Uscite con una ragazza. Okay. Con una banalissima scusa andate a casa sua. Sì. E dite se vi porto un po' d'acqua comunque. Oppure andate un attimo in bagno. Oppure assentatevi. Comunque allontanatevi un attimo da lei. Fate in modo che i due si allontanino. Quando lei torna da voi, fatevi trovare nudi, completamente nudi. Le reazioni sono due: o lei ride e finisce in bacca, quindi tutti allegri, dice vabbè, ero ubriaco e pace, oppure ci sta. E 2 volte su 3 pare funzioni questa cosa. E quest'uomo, appunto, trovato nudo in casa di Ted, spiega la sua tecnica. E lui è orrendo, cioè veramente un uomo brutto. Lui spiega che non è né bello né simpatico, né attraente. E non ha argomenti di discussione, parla soltanto del fanta football. Quindi come faccio a conquistare una donna? Uso The Naked Man. E ovviamente voleva conquistare Robin, non Ted. Ovviamente. Però Ted torna a casa e si trova un uomo nudo. Una volta che sanno questa cosa, i protagonisti della ci provano anche loro. Ci provano. 2 su 3 funziona. Immaginate chi funziona e chi no. Basta. Abbiamo detto un po' troppo. Basta. Spoiler. Chiediamo scusa a tutti coloro che sono in chat e che magari avevano intenzione di vedere anche The Naked Man. Ma guardatela. Anche se poi non guarderete mai How I Met Your Mother, guardatevi The Naked Man. Stagione 4, episodio 9. E tanto c'è gente che mangia rumorosamente ed è seduta sempre su un monitor. Immaginate chi è. E quindi di cosa vogliamo parlare? Ditemi, fateci domande. Ma non c'è il quiz oggi. Vabbè, lo facciamo allora. Tanto allora facciamo ce l'abbiamo quiz. su How I Met Your Mother. Siamo il quizzone, sei pronto, Frankie? Sono prontissimo. Allora, perché diciamolo ai nostri spettatori, perché non è che l'abbiamo fatto troppe volte ancora. Prima facevamo il quiz agli spettatori, cioè agli ascoltatori, su serie TV a caso. Ancora adesso lo facciamo, ma ci rispondono sempre le solite persone, allora vabbè, finché non ci abbiamo qualcun altro aspettiamo. Però abbiamo introdotto anche un quiz per gli ospiti, per vedere se effettivamente conoscono la serie TV di cui stiamo parlando. Vai. Perché sennò poi no, può sembrare così che leggono tre cose, da Wikipedia, ad esempio. Sono pronto a vincere. Allora, prima domanda. Prima proviamo senza risposta multipla, se non avete proprio idea. Vai. Vediamo 4 risposte. Abbiamo detto prima che l'attrice che interpreta Lily è famosa anche per qualcos'altro. abbiamo parlato di un film, di una serie di film. Cioè, chi non suggerisce... può fare il suggeritore dalle spalle lui, però. Però c'è anche una serie TV. Sì. Dove lei è protagonista. È coprotagonista. Ah, aspetta, non abbiamo detto una cosa importantissima di How I Met Your Mother. Cosa? È importante. No, sono... no, no, aspetta. Le comparsate famose che ci okay. sono Britney Spears e Kate Perry e chi c'è più? Ce n'è tanti, tantissimi. Però non mi ricordo, però ce n'è tanti. Ok. Ma, no, non è giusto per sì, sì, no, no, stavo ridendo perché è uscito perché in chat hanno risposto alla domanda. Noi abbiamo prontamente allora, coperto la risposta. Vabbè, allora dite, facciamo le tre opzioni, vai. Ci sono le opzioni? Io non me la so. Perché no? Facciamo tre opzioni. Io allora, mi prenoto. Fringe. Buffy. Happy Days. Dai, bastano questi. Sono stati buonissimi. Ma io ho visto a Met Your Mother, non quest'altro. Allora, vediamo un aiuto. No, perdo, si può, è inutile. È una serie di cui abbiamo parlato, però. Tutte e tre. Tutte e tre. No, non è un aiuto. Non è un aiuto. Ne abbiamo Happy Days non di sicuro. Sarebbe una vecchiaccia. Prime puntate. No, allora Buffy, allora è Buffy. E chi fa in Buffy? Willow. Fa i Buffy. Che è Willow? La strega. Biappi. Biappo. Willow. È la strega amica di Buffy. Ok. E in F sappiamo che tu l'hai detto mezz'ora fa, ma loro non avevano ancora letto, per cui infatti si è visto che non è che... Ok. Domanda, vai. Domanda numero 2. Stiamo vincendo, no? Qual è il film preferito di Ted? È Star Wars. E perché? Cioè, cos'è che proprio lui adora? Che cos'è che vorrà fare da grande? No, vabbè, la domanda era quella, l'abbiamo risposta. Non c'è un e perché, è un quiz. In realtà la domanda era un'altra, lui l'ha sbagliata. Ok, però vabbè. Però non è che è colpa mia. Allora, mettiamola così. Rigiriamo un attimo la domanda. No, non è giusto. Vabbè. Che nomi io vorrebbe dare ai propri figli? Ted Mosby. Come si chiamano quelli di Star Wars? Cioè qui non ho mai visto Star Wars. Cinemando vi espelle dal firmamento degli ospiti, io ve lo dico. Io l'ho visto ma non lo ricordo. Dai, diciamo che vabbè. Abbiamo risposto bene. È Luke e Leila. Ok. Quando lo dice? E lo dice in una cosa che l'ho già vista anch'io. È all'inizio della seconda serie. Poi terza domanda. Due. Avevamo una terza domanda. Sì. Terza domanda. In F, non lo so, non l'ho mai visto. Non è che colpa. Non è una colpa. No, perché c'è in F che dice: ma come non ha visto Star Wars? No, perché qualcuno ha fatto un grande spoiler su Star Wars. Perché qualcuno mi ha detto: non hai mai visto Star Wars? Dai, forte. Lo sai che. E mi ha detto il finale di 6 film Colossal. Ok. Comunque, terza domanda. Vai. Questa è sugli attori. Due degli attori, tra le varie cose che hanno fatto nella loro vita, hanno fatto anche gli sceneggiatori. Chi sono? Due degli attori? Sì, dei 5 protagonisti. Cioè. Ma dai. Barney, butto. E anche Ted. È Ted. Allora, una giusta e una sbagliata. E Ted è quella giusta. Ah no, Marshall. Anzi, no, le donne no. Tanto dici se Ted è quella giusta. No, ditemi la Ted e Marshall. Ted e Marshall. Ted e Marshall. Ebbene sì, Ted. Hai visto? Grazie. Avanti. E vincete la tazza. E vai. Cioè, una tazza in due. Io venivo qui da 8 mesi per la tazza. Ce l'ho fatta. Non verrò più. Basta. Oi. Quindi era basta tazza. Cioè basta tazza. Qui. Basta no, io qui. No, qui. Infatti non vengo più. Va bene. Allora, visto che noi adesso cosa volete? Voi avevate in mente di mandare qualcos'altro? No, io manderei canzoni a sbaffo. Sand Castle o Sand Sand. Perché è giusto che conosciate le canzoni di Robin. E... sì, Tommaso intanto non ha capito che è questa. Anzi, però prima, visto che Barney è il personaggio preferito, Sì. Mandiamo prima un pezzettino di Barney che dice qualcosa anche di inutile. Tanto ma come? Anzi, ma no, che presentazione, no, anzi, la canzoncina che Barney, le canzoncine di Natale che Barney compone ogni anno per la sorella di Ted. E poi la canzone di Robin, la canzone d'amore, tristissima, Sand Castles in the Sand. Va bene, allora noi salutiamo oppure ci troviamo dopo? No, ci troviamo dopo e salutiamo. Sì, allora, okay, dopo. A dopo, buon ascolto. Pulling down her pants, yanking off my own. Underneath the mistletoe, I'll make your sister moan. Oh, Heather's hot, Heather's hot, we'll go all the way. I wish I could see her naked, I wish I could see her naked. I wish I could see her naked and down on all fours. Ted has a little sister, gets hotter every day. And if I ever meet her with her boobies, I will play. Everybody, sister, sister, sister. I can celebrate Hanukkah too. Otto, siamo tornati. Eccoci, dopo un'imprecazione contro i Mac di Piero contro il mio povero computerino. Fa schifo, basta, i Mac non sono buoni, diciamolo. L'uso in radio non vanno bene, perché no. Il jack si stacca sempre. Hanno un solo ingresso jack, quindi non puoi metterci un microfono. Non serve, c'è il microfono suo che è perfetto. Vabbè, ora. Oh, comunque. Dite. Siamo arrivati alla fine più o meno della puntata. Sì. Speriamo. Speriamo di essere stati abbastanza chiari, ma al tempo stesso di aver indotto l'ascoltatore la curiosità di andare a vedersi How I Met Your Mother. Ora chiediamo in chat: abbiamo messo curiosità addosso a tutti voi ascoltatori? Non ci risponderà nessuno perché c'è Inef che l'ha già vista. Poi altri, speriamo che non l'abbiano vista, oppure che l'abbiano vista e che vogliano rivederla perché gli abbiamo fatto ritornare la voglia di vederla. Giusto. Infatti, noi speriamo. Se è successo, è successo. Se non è successo, succederà. Comunque. No, io mi sono divertito, spero anche voi. Anch'io. E spero anche in chat. Cioè, oggi incredibile, ero già pronto a dire, poi salutiamo Tommaso da Marsino, invece no, ce l'ho qui accanto, è vivo. Ma quanto è bello avercelo qui accanto. E poi... Che porta da mangiare. Infatti. Abbiamo mangiato più oggi che... Guarda, metto anche la musichetta di sottofondo. Ma sta a volume altissimo sottofondo. Cos'è sta cosa? Perché questa musica di sottofondo? Europa, pensavo. Europa no. Era cos'è? Carramba. Video imbarazzante. Deve vedere un video della Carraballa in maniera sexy, ho 80 anni. Balla. No, ma questo video è tipo di 15 anni fa, per cui... Guarda come era scritto da Yung. No, era 90-93, forse. Che? Di più? 95, anche sì. Baggio. C'era Baggio Gio, Vespa senza Vespa lei. Vespa sempre, uguale. Baggio di nuovo. Baggio con la maglia del Milan, quindi immaginate qua hanno questa cosa. No, vabbè, niente. Il corpo di ballo. Sergio Iapino sempre presente. Perché stiamo guardando questa cosa inutilmente? No, era così. C'era uno che assomigliava a Povia, dice Marco. Da giovane. Chiudere, prima di chiudere, dire una massima di Barney. E una minima poi dopo, per parlandicio. L'effetto cheerleader, cioè un consiglio a tutti. Quando vedete un gruppo di ragazze che insieme sembrano belle, che presentano insieme, vuol dire che singolarmente non sono belle. Questo è l'effetto cheerleader, secondo Barney Stinson. Che prese una a una possono essere le peggioracche, proprio delle cose incredibili. Quindi ragazzi, andate in giro insieme. Questo è il consiglio che vi stiamo dando. Se vedete un gruppo di ragazze che sembrano bellissime, soffermatevi singolarmente su ognuna. Okay. Non guardate il gruppo, ma guardate il singolo. Esatto. Che poi può essere un buon consiglio, voletto. È anche filosofica, sirena, no? Questo finale. L'effetto sirena? Ah, l'effetto sirena, possiamo dire, ma è un po' spoiler l'effetto sirena. Ma sì, ma tanto, ma sì. L'effetto sirena è quando tu vedi una tua collega come un lamantino, cioè come un tricheco fondamentalmente, un leone di mare. Sì. Dopo un po' di tempo, a forza di vederla, di vederla quotidianamente, dice, però lo sai che qualche sprazzo di sirena lo vedete in lei. Quindi da lamantino si trasforma in sirena. Secondo me non funziona, però. Comunque, non mi hai provato, però può essere. Tutto può essere. Comunque. E poi Barney ha sempre ragione. E va bene, con queste massime io. Che fate settimana prossima? Chiuderei. Non lo so. Perché non fate la puntata su Lost settimana prossima? No. Allora, lo diciamo a tutti. Noi stiamo aspettando l'ospite per preparare la puntata. Ce l'hai dietro le spalle. Ce l'abbiamo dietro le spalle. Gli abbiamo detto, quando vuoi facciamo, organizzati come vuoi tu. 2 mesi fa questo, eh. Ancora non si è visto niente. Stasera glielo ricordiamo. E in diretta gli chiediamo, caro ospite, quando vogliamo fare la puntata? Prendi l'impegno con gli ascoltatori. Dai. Fissa una data. Il contratto di berlusconiana memoria. Vieni a firmare. Vieni a firmare. Quando è che fate l'ultima puntata di quest'anno? Non esiste l'anno qui a Radio Cicletta. Come no? No, è una cosa lineare. Non si c'è. Va sempre avanti. Non è circolare. Che no, tutto si finisce male. Allora ancora c'è tempo. Dai, ma prendi l'impegno. Dai, tipo di tra 3 settimane vengo a fare la puntata. 4, dai. Un mese, cioè. Di un prima di. Ma secondo me dovete chiudere il programma. No, se non dice un quarto. Ce la faremo a fare Lost. Non ce la faremo mai. Cioè... È incredibile. Lost, allora, tutti vorrebbero parlarne. Noi gli diamo la possibilità. A tutti gli ascoltatori di postare sulla nostra pagina di Facebook tutte le richieste per Lost, così da far sentire il nostro ospite un verme per non volerci fare la puntata. Che poi sarà uno spoiler sempre. Vabbè, perché Lost funziona un po' così. Diciamo. Non ascoltatela quella puntata. Se volete, non. Non parlo di niente. Ma per gli amanti, è come i tuoi soliti programmi. Esatto. Oh, prima che arriva la signora con Giuseppe. Ok. Perché state facendo rumore? Va bene, vado via. Salutiamo. Io vi ringrazio per l'ospitalità. Prego. Anch'io per il cibo, soprattutto. No, che ormai è fissa. Comunque, questa era la sua prima volta. Era la sua prima volta. Come ti sei trovato? Beh. Com'è il luogo? Un luogo angusto, molto caldo. Molto caldo. No, caldo è sicuramente caldo. Spazioso, devo dire. C'era anche un muratore vestito bene, però. Ok. Però insomma, seduto su un monitor. E comunque sono felice di aver portato in giro il verbo di Barney, cioè, insomma. Sì, Katiana, ti devo dare il libro, hai ragione. Intanto qua comunicazioni di servizio tra la chat e il microfono. Ormai. Vabbè, è ormai. È mamma, così. Non torno a casa. No, mamma, no, è inutile. No, anche io, mamma, io sono a dormire da Mario. E dall'altra da Franca sei. Okay. Stasera mia mamma è occupata, quindi non mi può. Delirio in radio. Visto che stiamo degenerando, io direi di chiuderla qui. Mandiamo un pezzo. Tu scegli un pezzo. Ma io manderei quello dove sopra c'era un pezzo che sembrava carino. Che era. No, so, no, quello abbiamo già mandato. No, sono finiti sopra. Vai giù. E. Ah, aspetta. I Chumbawamba, vai. Dai. Con Tumba Swamping. Chiudiamo vai. Così? Sì, Chumbawamba. Sì. Allegria. Ok. Vai, annuncialo. Ciao Claudiano, che non so chi sei. Io immagino di sapere chi è, ma poi ve lo dirò. Allora, no, io non annuncio questo. Chumbawamba! Something. Io saluto tutte le ragazze in chat che mi chiedono di salutare. Manda i Chumbawamba e basta, via. Thumb thumping. Questi sono i Chumbawamba e ci sentiamo la settimana prossima. Buonanotte a tutti. Ciao, guardate. Ciao. Come vi sfumo. I get knocked down, but I get